Ingrid. Osservò la villetta a due piani e lanciò un'occhiata all'orologio. Era ora. La porta doveva essere aperta. A lei non restava da fare altro che entrare, accendere due candele e rovesciarne una, per poi tornarsene a casa. Si guardò attorno, aprì il cancelletto e percorse il vialetto ghiacciato. Arrivata davanti alla porta si fermò, in ascolto. Tutto taceva. Su per la scala, seconda stanza a destra, ripassò fra sé. Abbassò cautamente la maniglia ed entrò. Estrasse dalle tasche i copriscarpe di plastica azzurri e se li infilò ai piedi. C'era odore di cena, di vita, di persone sconosciute. Alla parete sulla destra erano appese delle fotografie incorniciate, ma le ignorò. Non voleva sapere, non doveva sapere. Avanzò in punta di piedi fino alla scala, poi fece un gradino. Due. All'improvviso sentì dei rumori provenire dal piano di sopra. Una voce, maschile, dura, aggressiva. Poi sentì un tonfo. Ingrid fece dietro front e si preparò a scappare.